Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City, a tutti voi e bentornato anche al nostro ospite Stefano Lamonato, esperto di sicurezza informatica di FireEye, con cui riprendiamo la conversazione interrotta ieri. Buonasera Lamonato. Buonasera Maurizio. Dunque Lamonato, ieri sera abbiamo cercato di capire come sono cambiate le tecniche di attacco informatico in questi anni e, pensando un po' a quanto è emerso, l'aspetto forse più rilevante è che mentre una volta gli attacchi erano mirati a distruggere le infrastrutture informatiche, che come tali erano dannosi ma anche evidenti, oggi invece gli attacchi sono diventati invisibili. L'attaccante mira a infiltrarsi nel sistema informatico confondendosi con i normali utenti e con i normali processi informatici per rimanere all'interno del sistema il più a lungo possibile, allo scopo di sottrarre dati, informazioni per i fini più disparati. Ci sono casi in cui queste infiltrazioni sono state smascherate solo dopo 8 anni. A questo punto, Lamonato, la domanda è: come si fa a capire che si è sotto un attacco informatico di questo tipo? A questo punto c'è bisogno sicuramente di avere una tecnologia che sia in grado di identificare non solo gli attacchi chiamati sconosciuti, ma anche di tenere in costante monitoring tutta la parco di client presente all'interno dell'azienda, e c'è bisogno di informazioni a corredo che permettano di carpire anche la semplice anomalia o sbavatura all'interno di quella che è l'insieme delle attività normalmente svolte. Mi fai un esempio? Guarda Maurizio, ogni gruppo di attacco è diverso. Noi infatti cerchiamo di capire gli strumenti che utilizzano, le loro tecniche di infiltrazione, le procedure operative all'interno dell'azienda. Ci sono alcuni gruppi, ad esempio, che abbiamo identificato fanno partire processi schedulati ogni giorno, e questo può essere ad esempio un indicatore di qualche anomalia se nel client o nei vari server questo tipo di processi non è sicuramente qualcosa di business, di collegato al usual, business. Usual, di normale. Piuttosto che appunto ci sono alcuni gruppi che vanno ad utilizzare alcuni tool che permettono di salvare dati dalla memoria. Questo tipo di tool vengono normalmente utilizzati anche da Windows semplicemente per far comparire gli errori quando un programma va in errore, ma dall'altra parte gli stessi attaccanti cercano di usarli in modo frequente per salvare porzioni di memoria e poi continuare delle attività di analisi sui dati direttamente che, a casa che arrivano da lì. Dunque, uno dei canali, uno dei, diciamo, dei punti in cui è più facile sfondare oggi come oggi e cominciare ad entrare per poi nascondersi all'interno del sistema, sono i social network e sono i dispositivi mobili. Sicuramente sì, abbiamo notato che gli attaccanti sfruttano in modo massivo i social network per cercare di approfilare gli utenti che poi saranno vittime di attacco. D'altronde le persone sono sempre molto leggere nel postare informazioni private o anche lavorative tramite i social network. Questo permette ad un attaccante motivato di capire sempre di più quelle che sono le preferenze e le abitudini di queste persone per poi cercare di colpire. Nel momento in cui si cerca di colpire, gli attacchi sono ormai caratterizzati da una capacità di identificare se l'utente sta navigando tramite una postazione fissa piuttosto che un laptop o un mobile, un dispositivo mobile. Da qui il fatto che il traffico mobile bypassa i normali controlli aziendali quando si trova all'esterno dell'azienda mette a rischio i dati di questo dispositivo, che purtroppo sono sia business che privati. Diciamo che qui c'è anche un tema culturale non banale, nel senso appunto che usiamo con molta superficialità questi strumenti. A volte, per esempio, autorizziamo tutto, no? Quando ci chiedono autorizza questo, autorizza quello, in realtà li stiamo aprendo spesso senza accorgercene degli spazi. Sì, abbiamo la possibilità di decidere molte volte se autorizzare anche operazioni molto semplici. Dalla geolocalizzazione. Geolocalizzazione, utilizzo della fotocamera, abbiamo la possibilità di abilitare il microfono. Noi abbiamo identificato applicazioni che una volta che gli si dava l'accesso al microfono e al calendario cominciavano a registrare tutti i dati, tutte le conversazioni che venivano svolte durante determinati meeting. Come facciamo a difenderci da questi attacchi avanzati? Come cambia la difesa a questo punto? La difesa cambia in base all'attaccante che ci si trova davanti. Bisogna sicuramente identificare la metodologia di attacco, identificare quelli che sono gli strumenti che l'attaccante utilizza, le tecniche di infiltrazione, le sue procedure operative. Ecco, possiamo dire che più che una questione di affidarsi all'antivirus è proprio un lavoro di intelligence interno a questo punto? È un lavoro di intelligence interno che può prendere spunto da quelli che sono eventuali incidenti che sono già stati risolti o identificati da altre aziende nel mondo, piuttosto che diciamo un supporto da parte di esperti che possano correlare questo tipo di informazioni. Va bene, grazie Stefano Lamonato. Grazie Maurizio e una buona sera a tutti gli ascoltatori. È tutto, a lunedì.